voce meravigliosa di John Denver, che interpreta Alaska, è il quarto stato meno popoloso d'America, ma è anche lo stato più grande. È uno stato straordinariamente naturale. In questa canzone si parla di balene, si parla di grande natura, molto ricco di petrolio, di risorse naturali, e produce già 400.000 barili di greggio al giorno, potrebbe produrne molti di più. È una delle polemiche in corso. I repubblicani vorrebbero estrarre petrolio, i democratici resistono per questioni ambientalistiche. È lo stato di Sarah Palin, e dunque sappiamo che la Palin guarda con simpatia Santorum, dunque possiamo immaginare che Santorum possa farcela. My home is in North Dakota, where the memories never fade away. My love for North Dakota is so strong, it'll always be. North Dakota, tipico stato del Midwest, pensate, nel 1870 era popolato da meno di 2000 persone, è stato dominato, abitato per secoli da tribù indiane, prima che Le Vendredier arrivasse nel 1738 a scoprire questo stato straordinariamente selvaggio. Pensate, il North Dakota ha il maggior numero di chiese per abitanti per gli Stati Uniti, molto religioso, per il 62,9% vota per i repubblicani. Dunque uno stato proprio schierato molto a destra. Beh, Santorum, Gingrich potrebbero farcela rispetto a Romney, anche se c'è un'influenza dei mormoni. I was traveling with my wagon to the shores of Texaco, when a husband and a wife from the great potato state said, come on in and save a buck or two. It's Idaho. Idaho Potato, come avete sentito la canzone già lo dice, è lo stato delle patate. Se si deve caratterizzare l'Idaho è per la produzione di patate, la più grande produzione di patate americana, ma una grande produzione anche di minerali, ed è l'unico luogo al mondo dove insieme alla regione dell'Himalaya in India si trova il granato, un minerale rarissimo. L'Idaho, pensate, 1,5 milioni di abitanti, e credo che sia poco più grande dell'Italia, il 23% mormoni, dunque promette bene per Mitt Romney. Carrellata conclusa dunque dei primi 5 stati del Super Tuesday. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, e parlando degli stati, ho scelto una canzone dei Bee Gees che parla appunto di uno degli stati di cui vi ho parlato oggi, i Bee Gees, Massachusetts. Massachusetts. Something's telling me I must go home. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.